Terzo anello ad alta voce. Il circolo Pickwick di Charles Dickens. Introduzione di Giovanni Raboni. Quando nel 1836 cominciano a uscire a puntate i documenti postumi del circolo Pickwick, primo grande romanzo di Charles Dickens, Dickens ha soltanto 24 anni. Questo è il suo primo romanzo. Fino a quel momento Dickens era un abbastanza oscuro umorista, giornalista e scrittore umorista, autore di piccoli bozzetti satirici. E anche Pickwick doveva essere qualcosa di simile, doveva essere una serie di bozzetti sulla vita inglese, sulla vita di provincia soprattutto, che servivano, erano destinati a servire da pretesto a una serie di illustrazioni di carattere soprattutto sportivo. Sotto l'impulso dell'immaginazione e della genialità di Kensiana, Pickwick diventa naturalmente tutt'altro e ha un immediato enorme successo che dura fino alla fine della pubblicazione delle puntate, che avviene nel 1837 e che poi farà di Pickwick uno dei grandi successi della carriera di Dickens, piena peraltro di enormi successi. Che cos'è Pickwick? È difficile definirlo come un vero e proprio romanzo. È una narrazione picaresca, possiamo dire, che parte da un'idea molto, molto semplice. Pickwick è un anziano eccentrico gentiluomo che ha fondato un circolo intitolato al suo stesso nome, che si propone di fare delle scoperte scientifiche, tutto questo naturalmente in una chiave comico-satirica. A un certo punto Pickwick decide, a un certo punto della storia del circolo, ma all'inizio del romanzo, decide con tre suoi amici e soci di intraprendere una spedizione nella campagna, nella provincia inglese, alla ricerca appunto di modificazioni del costume. Notiamo che è il momento in cui l'Inghilterra subisce un'enorme trasformazione sotto l'impulso della industrializzazione. Sulla scorta di questa semplicissima trovata comincia questo grande viaggio, che è nello stesso tempo un viaggio minimalistico, diciamo, un viaggio di minimi spostamenti in diligenza e un avventurosissimo viaggio nella realtà sociale e antropologica. E anche i compagni di Pickwick, i tre compagni di Pickwick, sono scelti in modo da rappresentare tre momenti dell'anima inglese, si può dire. C'è il grande sportivo, c'è tutto questo naturalmente ancora in chiave satirica, un grande sportivo, c'è il sentimentale sempre pronto ad innamorarsi, e c'è l'innamorato della poesia, il poeta, il dilettante naturalmente. Ecco, questi quattro personaggi si muovono appunto attraverso la realtà inglese e ne viene fuori un ritratto che parte come satirico e diventa universale, di una realtà in profonda trasformazione. Nachal achzav mitmale ושירוק מחסה והמרחב נפתח לשמיים זוגניים מביטות מחפשות צוללות בכחול לחק מרחבות באוויר אל הזהב המאיר את שערה הלך משאלה מה את רואה מה בליבה צוחק לא צעד ממה אז את עיניי לי תפקח כשתחת במזרח מה לא די בך משאלה מה את רואה מה בליבך צוחק לא צעד ממה אז את עיניי לי תפקח כשתחת במזרח מה לא די בך זב מתמלא ושירוק מחסר והמרחב נפתח ולא די לי די לי בכך ולא די לי ולא די בכך I piqui chiani. Il primo raggio di luce che rischiara le tenebre e tramuta in abbagliante splendore l'oscurità che ai suoi inizi sembra avvolgere la vita pubblica dell'immortale Pickwick, scaturisce dalla lettura della seguente risoluzione, tolta dagli atti del circolo Pickwick, che il curatore di queste memorie ha il piacere di presentare ai suoi lettori come prova della scrupolosa attenzione, dello studio indefesso e del sottile discernimento con cui ha condotto le sue ricerche nella molteplice varietà dei documenti affidatigli. 12 maggio 1827, presidente Joseph Spigar, esimio vicepresidente perpetuo, membro del circolo Pickwick. All'unanimità sono stati approvati gli articoli seguenti. Primo. L'assemblea ha udito leggere con sentimenti di sincera soddisfazione e approvazione incondizionata la memoria trasmessale da Samuel Pickwick, esimio presidente generale e membro del circolo Pickwick, intitolata Ipotesi sull'origine degli stagni di Hampstead con alcune osservazioni sulla teoria dei girini. E col presente atto l'assemblea tributa i più calorosi ringraziamenti al suddetto Samuel Pickwick, esimio presidente generale e membro del circolo Pickwick, per quanto sopra. Secondo. L'assemblea, profondamente convinta dei vantaggi che verranno alla causa della scienza dall'opera già citata, nonché dalle indefesse ricerche di Samuel Pickwick, esimio presidente generale membro del circolo Pickwick nei quartieri di Hornsey, Highgate, Brixton e Camberwell, non può ignorare i benefici inestimabili che inevitabilmente si produrrebbero nel progresso della scienza e nella diffusione del sapere se questo studioso applicasse il suo pensiero a un campo più vasto, estendendo i suoi viaggi e allargando per conseguenza la sfera delle sue osservazioni. Terzo. L'assemblea, sulla base delle convinzioni espresse sopra, ha preso in seria considerazione la proposta formulata dal suddetto Samuel Pickwick, esimio presidente generale e membro del circolo Pickwick, e da altri tre pickwickiani qui sottonominati, di formare un nuovo ramo di Pickwickiani Uniti sotto il nome di Società di Corrispondenza del Circolo Pickwick. Quarto. La suddetta proposta ha ricevuto la sanzione e l'approvazione dell'Assemblea. Quinto. La Società di Corrispondenza del Circolo Pickwick è pertanto costituita col presente atto. E Samuel Pickwick, esimio presidente generale membro del Circolo Pickwick, Tracy Tupman, esimio membro del circolo Pickwick, Augustus Snodgrass, esimio membro del circolo Pickwick, e Nathaniel Winkle, esimio membro del circolo Pickwick, sono designati e nominati membri della medesima con l'impegno di inviare ogni tanto al circolo Pickwick, con sede in Londra, il resoconto veritiero dei loro viaggi e delle loro ricerche, delle loro osservazioni su caratteri e costumi e di tutte le loro avventure, e di raccogliere ogni testimonianza locale, orale o scritta, originata nei diversi ambienti naturali o sociali. Sesto. L'Assemblea è lieta di accettare il principio che ogni membro della società di corrispondenza provveda da sé alle proprie spese di viaggio e non ha nulla in contrario ad ammettere che i membri della suddetta società prolunghino a piacere le loro ricerche, salvo il principio suddetto. Settimo. I membri della sopracitata società di corrispondenza siano, come sono col presente atto, informati che la loro proposta di pagare essi stessi le spese di posta per le lettere e di spedizione per i pacchi è stata esaminata dall'Assemblea, che l'Assemblea considera tale proposta degna delle grandi intelligenze da cui fu concepita e col presente atto notifica di accettarla senza riserve. Un osservatore occasionale, aggiunge il segretario dalle cui note è tratto il resoconto che segue, un osservatore occasionale forse non avrebbe visto niente di straordinario nella testa calva e nelle lenti circolari che durante la lettura del documento trascritto sopra rimasero sempre rivolte verso il suo viso, quello del segretario. Ma per chi sapeva che dentro quella fronte era in azione il gigantesco cervello di Pickwick, che dietro quegli occhiali, i folgoranti occhi di Pickwick mandavano scintille, lo spettacolo aveva certo ben altro interesse. Là sedeva l'uomo che aveva scoperto l'origine dei grandi stagni di Hampstead e messo il mondo scientifico in subbuglio con la sua teoria dei girini. Calmo e immoto come le acque profonde dei primi in un giorno di gelo, o come un solitario esemplare dei secondi nei più profondi recessi di un vaso di terracotta. E ancor più interessante divenne lo spettacolo quando, rianimandosi e ritrovando tutta la sua vivacità al grido di Pickwick, uscito dal coro dei suoi seguaci, quell'uomo illustre si inerpicò lentamente sulla sedia Windsor, su cui in precedenza era rimasto a sedere, e si rivolse al circolo che lui stesso aveva fondato. Che soggetto per un pittore sarebbe stata quella scena esaltante! Lui, l'eloquente Pickwick, con una mano elegantemente nascosta dietro le falde della redingote e l'altra ondeggiante nell'aria a sostegno della sua scintillante oratoria, e messe in mostra dalla sua posizione elevata le brache e le ghette, che se avessero rivestito un uomo qualsiasi sarebbero rimaste inosservate, mentre indossate da Pickwick ispiravano, se così possiamo esprimerci, spontanea riverenza e rispetto. E intorno a lui quegli uomini che volontariamente si erano offerti di condividere i rischi dei suoi viaggi e che erano destinati a partecipare alla gloria delle sue scoperte. Alla sua destra sedeva Mr. Tracy Tupman, il super emotivo, che alla saggezza e all'esperienza degli anni più maturi aggiungeva l'entusiasmo e l'ardore di un ragazzo nella più dilettevole e perdonabile delle umane debolezze, l'amore. Il tempo e il nutrimento avevano dilatato le sue già romantiche forme. Il panciotto di seta nera era divenuto sempre più ampio. La catena d'oro che pendeva sotto di esso era scomparsa, centimetro per centimetro, dalla visuale di Tupman. Il doppio mento era sconfinato a poco oltre i bordi del colletto bianco, ma l'anima di Tupman non aveva conosciuto cambiamenti. L'ammirazione del bel sesso era rimasta la sua passione dominante. A sinistra del suo grande condottiero sedeva il poetico Snodgrass e accanto a lui lo sportivo Winkle. L'uno poeticamente inguainato in un misterioso abito blu coi risvolti di pelle di cane, l'altro aggiungendo il proprio lustro a quello di una nuovissima giacca verde da cacciatore, una sciarpa scozzese e un paio di gambiere di stoffa strettamente allacciate. Il discorso che Mr. Pickwick fece in questa occasione, insieme al dibattito che ne nacque, è riportato negli atti del circolo. L'uno e l'altro presentano una grande somiglianza con i dibattiti di altre famose assemblee, ed essendo sempre interessante riscontrare i punti di contatto nel comportamento dei grandi uomini, trascriviamo qui il verbale. Mr. Pickwick, scrive il segretario, osservò che la fama è cara al cuore di ogni uomo. La fama di poeta era cara al cuore del suo amico Snodgrass. La fama di conquistatore era ugualmente cara al cuore del suo amico Tupman. E il desiderio di acquistar fama negli sport campestri, aerei e acquatici era il più forte nel petto del suo amico Winkle. Egli stesso, cioè Mr. Pickwick, non avrebbe negato di essere soggetto alle passioni umane, ai sentimenti umani, applausi, e magari alle umane debolezze, alte grida di protesta. Ma questo egli teneva a dire, e semmai nel suo petto era divampato il fuoco delle vanità, esso era stato soffocato completamente dal desiderio ben più forte di beneficare il genere umano. La lode del genere umano poteva essere la sua sedia a dondolo, ma la filantropia era il suo ufficio di assicurazioni, applausi frenetici. Aveva provato un certo orgoglio, lo riconosceva apertamente, ne profittassero pure i suoi nemici. Aveva provato un certo orgoglio nel presentare al mondo la sua teoria sui girini. Famosa o no, qui non importa dire, una voce grida lo è! Grandi applausi. Accoglierà dunque l'affermazione dell'onorevole Picquichiano, la cui voce si è orora udita. Famosa! Ma se anche la fama dell'opera dovesse raggiungere i confini di tutto il mondo conosciuto, l'orgoglio di esserne l'autore non potrebbe mai diventare paragonabile all'orgoglio con cui guardava adesso intorno a sé, in questo che era il momento più solenne della sua vita. Applausi. Egli era una modesta persona, no, no, si rendeva conto però di essere stato scelto per un'impresa altamente onorevole e non priva di rischi. Si viaggiava in condizioni disagevoli e uno spirito sedizioso agitava il personale di posta. Bastava guardar fuori e osservare le scene che si svolgevano intorno, diligenze che si ribaltavano da ogni parte, cavalli che si imbizzarrivano, battelli che si scaravoltavano, caldaie che scoppiavano, applausi, una voce, non è vero, non è vero, applausi. L'onorevole Picquichiano che ha gridato non è vero così forte, venga fuori e lo neghi se può, applausi. Chi è stato a gridare non è vero, applausi entusiastici. Si tratta forse di un uomo ambizioso e deluso, per non dire di un povero untorello, fragorosi applausi, che geloso delle lodi tributate forse immeritatamente alle ricerche di qui sopra e inasprito dalle critiche che si erano abbattute sui propri deboli tentativi di competizione, si era dato adesso a questa vile e calunniosa forma di... Mr. Blotton di Aldgate chiese la parola. Era a lui che per caso alludeva l'onorevole Picquichiano? Mozione d'ordine. Presidente, sì, no, parli, stia zitto. Mr. Pickwick non avrebbe sopportato di farsi intimidire da quella cagnara. Aveva esattamente alluso all'onorevole signore. Grande eccitazione. Mr. Blotton in questo caso voleva precisare soltanto che respingeva con profondo disprezzo l'accusa falsa e volgare dell'onorevole signore. Grandi applausi. L'onorevole signore era un ciarlatano. Tremenda confusione, alte grida di presidente, mozione d'ordine. Mr. Snodgrass chiese la parola. Egli si appellava alla presidenza. Bravo! Desiderava sapere se si sarebbe permesso che quel vergognoso battibecco fra due membri del circolo continuasse. Bene, bravo! Il presidente espresse l'assoluta certezza che l'onorevole Picquichiano avrebbe ritirato l'espressione di cui aveva testé fatto uso. Mr. Blotton, pur col massimo rispetto verso la presidenza, espresse l'assoluta certezza di non volerlo fare. Il presidente allora disse che considerava suo dovere imprescindibile chiedere all'onorevole signore se avesse usato l'espressione testé sfuggitagli nel senso che le si attribuisce comunemente. Mr. Blotton rispose che non aveva alcuna incertezza a dire di no. Egli aveva usato quella parola nel suo senso picquichiano. Bene, bravo! Si sentiva tenuto a dichiarare che nutriva personalmente il rispetto e la stima più alti per l'onorevole signore. Lo aveva considerato un ciarlatano da un punto di vista puramente picquichiano. Bene, bravo! Mr. Pickwick si sentiva pienamente soddisfatto dalla spiegazione precisa, sincera ed esauriente del suo onorevole amico. E teneva a chiarire immediatamente che anche le sue osservazioni precedenti dovevano essere interpretate secondo una logica puramente picquichiana. Applausi. Qui termina il verbale. E qui terminò indubbiamente anche il dibattito, essendo pervenuto a un tale vertice di soddisfazione e comprensione reciproca. Non abbiamo invece una relazione ufficiale dei fatti che il lettore troverà esposti nel prossimo capitolo, ma essi sono stati accuratamente verificati su lettere e altre testimonianze manoscritte, la cui autenticità è così indubitabile da giustificare la loro narrazione in forma continua.